Disco Della Settimana. Passo a prendere e partiamo, decolliamo piano piano a 100 all'ora, poi miriamo e lanciamo bombe a mano a 100 metri da chi siamo, ci specchiamo e riflettiamo sempre quello che non siamo, e perdonami se è strano se non so correre piano, perdonami se un giorno prendo e dico che mi sparo, mi amo e non mi amo, io non so correre piano, frega un cazzo se sbattiamo, mira e sto dito medio, ecco quindi che facciamo. Guarda quindi che facciamo. Vediamoci al traguardo, avrei voluto essere un santo, non sorrido più di tanto, da bravo bastardo. Bandiere, fiori, asfalto, ogni goccia sul mio casco, che rimane sul mio casco è tra me ovunque guardo. Domani è lontano e stanotte non è mica detto che la superiamo. Oh, oh, oh. Non sto bene, non sto male, non mi posso lamentare. Surfiamo cieli grigi contro umano, lascia perdere che è umano non sapere cosa siamo. Il mondo è tuo e qui ci siamo, ma se tu quell'uragano e quel cerchi nel grano, dimmi se non è strano, dimmi se non è strano che non ci conosciamo. Ti tengo un po' la mano, poi ti lascio andare chiaro. Qui per vivere dobbiamo stare bene se moriamo, mentre il cielo su Bologna ci continua a urlare piano. Non sto bene, non sto male, non mi posso lamentare, vorrei stare anche male, ma dove cazzo mi pare? Non sto bene, non sto male, non mi posso lamentare, vorrei stare anche male, ma dove cazzo mi pare? Non tutte le canzoni nascono per una necessità, alcune ti vengono a cercare senza sapere se tu sia pronto o meno, se tu le voglia o meno. Senna non era un figlio voluto, ci è sbucato fuori per caso. Frankie mi ha trasmesso la passione per il genio brasiliano Ayrton Senna, dopodiché abbiamo deciso di celebrarlo. Questa canzone non è altro che un modo per ritrovare la persona e non il personaggio. La big band nei ritornelli deve sapere di festa e di irriverenza, non vuole descriverne la depressione, ma appunto celebrare nel testamento. Ecco, questa era la descrizione della prima canzone che abbiamo ascoltato oggi in questo disco della settimana. Infatti è la canzone che abbiamo ascoltato pochi minuti fa e si chiama Senna. È una delle 10 canzoni che compone il disco della settimana che vi proponiamo oggi e che ha un nome particolarmente interessante. Questo album si chiama Canzoni che sarebbero dovute uscire tot anni fa. È uscito il 30 ottobre, quindi pochissimo tempo fa, ed è il disco di esordio di un artista che ha un nome particolare. Si chiama Van Basten, ma non parliamo del calciatore che molti di voi ricorderanno per la militanza nel Milan negli anni 90. Parliamo di Carlo Alberto Moretti, che ha scelto appunto come nome d'arte da musicista Van Basten. Ma in realtà Carlo Alberto Moretti è stato calciatore a sua volta, fino a 22 anni infatti giocava a calcio, anche a buoni livelli, dopodiché ha mollato lo sport e si è dedicato interamente alla musica. Infatti ha pubblicato un primo EP e una serie di singoli. Questi singoli si chiamano Sedicenne, Pallonate, Santa Madre, Mascara, Kenshiro e Bevi Bevi, e sono stato praticamente il preludio in un qualche modo dell'uscita di questo disco d'esordio, di questo esordio discografico che stiamo scoprendo oggi. Ecco, a questo punto direi che vi abbiamo dato le prime informazioni e vi facciamo ascoltare quindi un'altra traccia. Partiamo dall'inizio, partiamo dalla prima traccia di questo album e si chiama Kenshiro. E dice: Kenshiro l'ho iniziata a scrivere su un treno di ritorno da Bologna. Volevo raccontarmi senza censura. La mia epilessia, la miseria della periferia e la depressione sono state accanto a me per ogni strofa ed in ogni sillaba che ho scritto ne ho pesato il valore pagandolo a caro prezzo. Volevo dire che ci sono, magari arrivo in ritardo e non sono nemmeno il benvenuto nei vostri salotti borghesi, che amate travestire da quartier generale liberale, ma ci sono e se questo vi infastidisce a me proporzionalmente mi fa godere. Kenshiro gira su un'armonia new wave semplice di quelle che ho imparato a suonare vivendo per 3 anni e mezzo in una sala prove in mezzo al nulla. Per me quello era il suono del silenzio e della solitudine, era il suono che mi dava più pace di tutti gli altri. Voglio essere un libro con le storie che nessuno vuole mai raccontare, quelle di chi non ha quasi niente e di chi ha perso tutto. Voglio dipingere tossici, criminali, amici tristi, adolescenti eccitate e donne speciali. Kenshiro serve anche a tutto questo, copre le spalle le mie parole, le protegge affinché io stesso non decida di non liberarle più. A questo punto scopriamo questa traccia che apre il disco e poi vi raccontiamo un po' di più di Van Basten e di canzoni che sarebbero dovute uscire tot anni fa. A non avermi capito, no. Avevo quasi perso tutto, Carlo era quasi morto. Indovina come ho fatto a farti attaccare al cazzo. Per 4 canzoni ho dato gli anni migliori, per tante ragioni. Sono le canzoni in un bosco di amarezze, violenze e depressioni. Ho colto un accendino ed ho dato fuoco ai rovi. Ora che per ogni strofa un pochino io ti uccido, ora che la tua ignoranza in ghiotten era la mia via, ora che tu sei in ginocchio io sono che sciro. Quanto sei stato stronzo a non avermi capito, no. Fare altro senza penna tra le dita. E questa era Kenshiro, la prima traccia, la seconda che vi abbiamo fatto scoprire noi, però la prima contenuta in quest'album di 10 tracce che si intitola Canzoni che sarebbero dovute uscire tot anni fa. Di Van Basten. E allora scopriamo chi è Van Basten, perché è una storia che è abbastanza interessante, carina. Allora, Van Basten si chiama appunto Carlo Alberto Moretti ed è nato a Roma, a Montesacro, un po' di anni fa. Noi pensavamo fosse molto giovane, fosse un ventenne, invece no, è dell'86, quindi ha 34 anni. Ha iniziato a suonare a 22 anni, quindi 12 anni fa, dopo aver fatto un po' di carriera da calciatore che lo ha portato anche fuori casa, lontano dalla città e lontano dai suoi affetti per un po', insomma, lontano da sua famiglia. A un certo punto succede qualcosa. Ah sì, lui decide di mollare il calcio per la musica. Si avvicina inizialmente al rap, poi prende in mano la sua prima chitarra elettrica e ha veramente tanta urgenza di esprimersi, ma ha scarse conoscenze in materia musicale. Però ciò non gli impedisce comunque di iniziare a suonare dal vivo in vari locali, facendo dei tour in giro e arrivando addirittura nel 2019 ad aprire i concerti di Pete Doherty and Puta Madres. Adesso i Puta Madres non me li ricordo, ma Pete Doherty, insomma, mica cazzi, mi viene da dire. Quindi un po' tra il punk, un po' il rap, un po' la garage, un po' la new wave, è arrivato un po' a quest'album che raccoglie tutto quanto in un ambiente un po' più pop. Quest'album è uscito il 30 ottobre, come dicevamo, ed è stato appunto un disco d'esordio che ha seguito un po' l'uscita di alcuni singoli, l'elaborazione di alcuni singoli e di un EP di esordio. Continuiamo a scoprire Van Basten a questo punto. Ascoltiamo allora la seconda traccia di quest'album, andiamo avanti con un ordine, insomma. La seconda traccia si chiama Mascara. Era il gennaio del 2010. In quel periodo i concerti, oltre che farli, li organizzavo e mi trovai quasi tutti i giorni su un bus 86 che mi rimbalzava da Vigne Nuove al Piper Club e viceversa. Uno di quei giorni, quando ne scesi, avevo scritto qualcosa. Quando si aprì la portiera, mi regalavo di nuovo alla borgata, aggrappandomi a un sorriso nuovo. Avevo appena scritto quella che per anni sarebbe stata la mia canzone più bella. Quindi insomma, lui dice che Mascara è il suo pezzo migliore. Volevo raccontare la rabbia che provava un mio amico dopo essere stato deluso dalla sua ragazza. Volevo potenza, melodia e una sobria arroganza che all'epoca non mi apparteneva per niente. La desideravo e la trovai su quell'autobus 86 in un pomeriggio di metà febbraio. Quindi, se per caso siete di Roma e fate quel tragitto, mettetevi le cuffie, sparatevela a tutto volume e pensate che senza di lei non avrei scritto più nient'altro. Allora, ascoltiamo questa canzone. Scopriamo la traccia numero 2 di quest'album, che vi ricordiamo è il primo album, l'album di esordio di Van Basten, che è uscito il 30 ottobre e che si chiama Canzoni che sarebbero dovute uscire tot anni fa. E dopo avervi fatto scoprire anche Mascara e averla scoperta insieme di Van Basten, vi raccontiamo un pochino di aneddoti e di cose interessanti che abbiamo scoperto su sto ragazzo romano. Sti ragazzi. Sono ragazzi. Ecco. Allora, riguardo a Van Basten, che invece si chiama Carlo poi nella vita, sappiamo che ha iniziato appunto a suonare a 22 anni, ma non era da solo. Cioè lui a un certo punto ha avuto sta grandissima idea, pur non sapendo suonare assolutamente niente, di fondare una band, e hanno aderito altre persone che non sapevano suonare assolutamente niente, quindi è stato un progetto che è partito con forte preparazione musicale. Questa band si chiamò Poveri Noi Band e iniziarono a suonare nel 2011, insomma, quindi ormai un po' di tempo fa. La cosa in più che sappiamo dei Poveri Noi Band è che quando hanno fatto un concerto, col fatto proprio che Carlo lavorava per il Piper, quindi organizzava concerti, hanno esordito con un live pazzesco, un live pieno di persone con tantissimo pubblico, proprio perché lui, oltre che a organizzare concerti, ovviamente aveva tantissimi contatti e quindi hanno riempito il Piper. E lui dice che nel primo live suonava la chitarra da 6 mesi, cioè proprio così, impari come quando impari il giro di Do e poi pam, vai direttamente a fare i live al Piper. Probabilmente non è andata proprio così, un po' meglio, però insomma l'idea è un pochino quella. Ma ci sono altri aneddoti che possiamo raccontare di questo ragazzo, di Van Basten. Lui ci parla anche di un artista del passato che gli piace molto, ma anche per un motivo particolare. Stiamo parlando di Rino Gaetano, e soprattutto per questioni geolocalizzate, cioè Rino Gaetano era nato e cresciuto nello stesso palazzo in cui è nato e cresciuto Van Basten, quindi in questa borgata romana di Montesacro. E lui dice: tra l'altro, i miei genitori ci uscivano anche quando erano ragazzi, quindi io c'avevo quest'ombra addosso di dire: devo un po' ispirarmi per forza a Rino Gaetano, è una roba che non posso, da cui non posso esimermi, ecco. Beh, poteva andare peggio, comunque direi che Rino Gaetano è un grandissimo musicista, quindi direi che è andata bene. Beh, chiudiamo questa piccola, diciamo, carrellata di aneddoti che riguardano Van Basten con il fatto che ha un lavoro Van Basten, cioè nel senso ha fatto il calciatore, ha iniziato a suonare, ma fa anche un'altra cosa, che è una cosa un po' legata comunque al fatto di essere un musicista e un cantautore, perché si tratta sempre di parole, dell'utilizzo delle parole, e lui fa il ghostwriter, che non è un fantasma che scrive, ma è uno che scrive per altri, quindi lui racconta le storie di altre persone. E lo descrive come un lavoro molto faticoso, molto pesante, che ha delle scadenze, ma che ha anche un lato divertente. Ecco, quindi sappiamo qualcosa di più di Van Basten, stiamo scoprendo un po' chi c'è dietro l'artista, ecco. Continuiamo a scoprire anche questo album invece, andiamo avanti. Questa volta andiamo alla traccia numero 5, A Pallonate. E Van Basten ci racconta: camminando da solo per strada sotto al diluvio, prendo le cuffie e le sciolgo col dito, metto il cappuccio mio migliore amico e cammino. Le periferie sono dipinte solo dai rapper e dai trapper. Io non sono un rapper, non sono un trapper, non sono indie, non sono un cazzo. Sono uno che vive in periferia e che qualche volta la vuole raccontare. Scrivo quello che vedo. Se vedessi una coppia borghese che si bacia, scriverei di loro, ma vedo più che altro la gente mentre sopravvive. Pallonate si sarebbe dovuta chiamare Novel Noir, ma poi decisi di cambiarla e dedicargli il titolo del disco. Non andò poi così, ma l'importante è che suona esattamente come desideravo io. Nella preproduzione riempì ogni battuta con una cassa. Volevo che l'impressione dei palloni calciati contro un muro accompagnasse tutto il pezzo e che una chitarra basso wave le girasse attorno con poche ma ipnotiche note. Dice: volevo scrivere una canzone che parlasse dei miei posti, un manifesto per me e per i miei fratelli. Doveva essere potente perché volevo che facesse casino quando ubriachi ce la saremmo pompata in macchina, ma volevo anche che fosse spietata senza essere esagerata. In pratica volevo trasformare gli scenari della nostra giovinezza in musica, volevo prendere a pallonate tutte le canzoni borghesi d'amore che sentivo uscire. Dopo questa presentazione così forte vi facciamo ascoltare la traccia numero 5 dell'album d'esordio di Van Basten, che si chiama Pallonate. Popolari, cieli grigi e depressione, te. Questo disco della settimana in cui vi ricordiamo abbiamo presentato canzoni che sarebbero dovute uscire tot anni fa di Van Basten, possiamo parlare di quello che dice Van Basten del disco e ci dice: dopo aver pubblicato il primo EP avevo l'esigenza di far crescere la produzione delle canzoni e se prima il lavoro veniva fatto tutto in sala prove, d'ora in avanti volevo lavorare in maniera diversa. Iniziai a produrre tre provini, sedicenne, pallonate e mascara. Quelli che tra l'altro ne abbiamo ascoltati due su tre. Volevo scrivere delle persone che mi erano vicine, di un mondo fatto di urla e depressioni, di amicizia e solitudine, di povertà e di lavoratori, di violenza e di dolcezza. Chi cerca di essere qualcosa dalle mie parti vive una contraddizione continua e di solito non ha nemmeno troppo tempo per ascoltarla la musica, figuriamoci per farla. Quando decisi di iniziare a suonare avevo 22 anni, andai in piazza dai miei amici e chiesi chi avesse voglia di farlo con me. Chiaramente nessuno sapeva suonare un cazzo, ma ovviamente alzarono la mano in tre. Iniziamo a suonarci addosso di notte, dentro un salone di parrucchiere di Felice, mio padre. Condividevamo rabbia ed urgenza di esprimerci, ma in quanto a suonare eravamo delle pippe pazzesche. Tuttavia, se qualcuno si fosse permesso di farcelo notare, avrebbe passato le pene dell'inferno. Presuntuosi? Sì. E infatti col passare degli anni sarebbero crollati tutti i pezzi di quella follia, tranne uno. Ogni volta che salgo su un palco e registro un pezzo, ripenso a quel periodo d'oro, dove serviva soltanto crederci e volare. Canzoni che sarebbero dovute uscire tot anni fa è il frutto di tutto questo, ma non solo. È un disco semplice fatto da persone complesse, arrangiato passando dal classico al contemporaneo, tenendosi a mantenere schietto e spietato nei temi come nei suoni. Le canzoni di questo disco sarebbero dovute uscire effettivamente tanti anni fa, ma sono successe tante cose nel mezzo e non ho potuto fare diversamente, se non rallentarne la produzione. Ogni pezzo è stato concepito in modo onomatopeico tra suono e significato in modo spontaneo. Scrivo al piano, alla chitarra o sulle note del cellulare, ma poco cambia. Se ho qualcosa da dire, prima o poi troverò il modo per raccontarla. Quando dico che suono, tutti pensano che io sia un rapper o un trapper, ma va bene così, le etichette non le ho mai amate e confondervi le idee mi ha sempre divertito. Sono un ragazzo abbastanza normale, non semplicissimo, non troppo equilibrato e nemmeno abbastanza conscio di ciò che sta facendo. Però brucio per dirvi ste cose, finché brucerò scriverò le canzoni per chi ne ha bisogno, per chi si smuove dal torpore. Sono un killer sotto il sole, solo a crivellare parole, lasciami restare, lasciami tentare l'immensità. Ecco, quest'ultima parte era un po' una supercazzola poetica lanciata da Van Basten per farci chiudere un po' il racconto su canzoni che sarebbero dovute uscire tot anni fa, album d'esordio appunto di Van Basten che vi abbiamo presentato oggi. E adesso, per chiudere questo disco della settimana, vi facciamo ascoltare la traccia numero 10, quella che chiude l'album, che si intitola Sparare Sempre. THC All Against the Ink Be La La La La La Bahi. Voglio contare i lividi steso su un campo di spigoli, pensare che siamo simili, li liberi. Continueremo a fare come ci pare, tanto tra gli spari non ci stiamo male. Poi pensa che palle sarebbe sapere che dormo sereno, che va sempre tutto bene, vita normale a chi vogliamo vivere così. Voglio con